Capitolo 10. Ai primi di marzo del 1841, Miss Bronte ottenne il suo secondo e ultimo posto di governante. Questa volta ebbe la fortuna di entrare in una famiglia dai sentimenti gentili e dai modi amichevoli. Considerò quale valido amico specialmente il padrone di casa che, coi suoi consigli, la guidò a compiere un importantissimo passo per l'avvenire. Però, siccome all'atto pratico le sue specifiche capacità di insegnante erano poche, dovette compensarne la deficienza impiegando il tempo libero in lavori di cucito, e la sua posizione fu quella di una bonne, ossia di bambinaia, sottoposta ripetutamente alle più svariate richieste. Per una giovane che, come lei, a casa aveva condotto una vita fatta principalmente di tempo libero, l'essere ora impegnata in un lavoro di natura non ben definita, eppure continuo, soggetto alla volontà altrui lungo l'intero arco della giornata, era terribilmente gravoso. Oziosa non lo fu mai in nessuna circostanza, ma la sua vita giovanile non conobbe il dipanarsi dalle conversazioni ai progetti, piccoli piaceri che formano il tessuto delle nostre giornate. In compenso, aveva avuto la possibilità di inventarsi lunghe e complesse storie fatte di sentimenti ed immaginazione per le quali, anche se ciò sembra strano, i più non trovano il tempo. Fu questo che, nella sua troppo breve carriera, insieme con l'intensità del sentire, ne logorò la salute fisica. La consuetudine di inventare era cresciuta con lei. Si era rafforzata col rafforzarsi della salute, era diventata parte integrante della sua indole, ma ora qualsiasi esercizio di quelle forti e caratteristiche facoltà le era impedito. Non poteva, come invece le era consentito quando si trovava da Miss Wooler, avere la certezza, mentre disimpegnava faccende che le incombevano, che giunta la sera sarebbe stata libera di occuparsi in modo a lei più congeniale. È scontato che una ragazza, scegliendo la carriera di governante, debba rinunciare alla propria indipendenza e accettare in partenza una vita di sacrificio, ma per Charlotte Bronte il tentativo di adattarsi significò il continuo sforzo di costringere ogni sua facoltà in una direzione alla quale la vita precedente l'aveva resa inidonea. Come le altre piccole Bronte, era cresciuta senza madre, non aveva conosciuto la gaiezza e i giochi dell'infanzia, non aveva sperimentato le carezze, la tenera sollecitudine materna, ignorava l'indole stessa dell'infanzia, non sapeva come portarne in luce gli aspetti migliori. I bambini costituivano per lei una inevitabile necessità, li aveva avvicinati solamente in veste di governante. Anni dopo, quando Miss Bronte venne ospite in casa nostra, non si stancava di osservare le nostre bimbe e non mi riuscì di persuaderla che erano semplicemente quali sono tutti i bambini e le bambine ben educate. Ogni loro gesto gentile verso chiunque, ogni loro attenzione per gli animali, ogni loro atteggiamento altruistico la sorpresero e la commossero. E fu tetragona nel sostenere che avevo torto quando la assicuravo che la loro non era affatto un'insolita eccezionale eccellenza, quanto sopra deve essere tenuto presente, leggendo le lettere sottoriportate. Coloro che le sono sopravvissuti guardando alla sua vita devono rammentare che nessun disgusto, nessuna sofferenza l'indussero mai a trascurare ciò che considerava suo dovere. 3 marzo 1841. Qualche tempo fa ti dissi che intendevo trovarmi un impiego e quando te lo dissi la mia risoluzione era fermamente presa. Benché spesso delusa, non intendevo darmi per vinta. Dopo essere rimasta 2 o 3 volte con un umiliante palmo di naso, avendo sopportato non so dire quante seccature, scambio di lettere, interviste, sono finalmente riuscita ed eccomi bellamente insediata nel mio nuovo incarico. La casa non è molto grande, ma è estremamente confortevole e bene organizzata. Il terreno che la circonda è bello e vasto. Ho dovuto ridimensionare le mie pretese dal punto di vista dello stipendio, ma spero di aver trovato sicurezza e conforto. Con queste ultime parole non intendo accennare a buon cibo e buona bevanda, a un caminetto acceso, a un letto morbido, ma bensì alla compagnia di visi lieti e di menti e cuori che non siano mai stati estratti da una miniera di piombo e tagliati in una cava di marmo. Il mio stipendio netto è di 16 sterline annue, pur essendo nominalmente 20, visto che le spese per il bucato vengono dedotte. Ho 2 alunni, una bambina di 8 e un ragazzino di 6. Per quel che riguarda i miei datori di lavoro, non aspettarti che ti dica molto circa il loro carattere, visto che sono giunta qui solamente ieri. Non ho la facoltà di discernere la natura di un individuo a prima vista per potermi azzardare a definire un carattere. Devo vederlo in varie luci e osservarlo da differenti punti di vista. Tutto quanto posso dire per ora è che Mr. e Mrs. mi sembrano persone buone. Finora non ho avuto motivo di lamentare mancanze di considerazione o di cortesia. I bambini sono scatenati, non sanno cosa sia la disciplina, ma per quanto mi è dato di vedere, la loro indole è buona. Spero di poter confermare quanto dico nella prossima lettera che ti scriverò. Desidero ardentemente e mi sforzerò di piacere. Se potrò rendermi conto che ci riesco e se mi manterrò in buona salute, mi dichiarerò, spero, moderatamente contenta. Ma nessuno all'infuori di me è in condizione di dire con esattezza quanto sia duro il lavoro di una governante e come pesi, perché solamente io posso sapere quanto ripugni in ogni suo aspetto alla mia mentalità e alla mia indole. Non pensare che io non mi biasimi per questa avversione o che trascuri un qualsiasi mezzo per vincerla e che non abbia il sincero intento di farlo. La maggior parte delle mie difficoltà nasce da cose che a te sembreranno di poco conto. Io invece trovo terribilmente difficile accettare la rozza familiarità dei bambini, chiedere alla padrona di casa e alla servitù qualsiasi cosa mi occorra, per semplice che sia. Mi costa meno sopportare un grave inconveniente piuttosto che entrare in cucina per chiedere che venga eliminato. Sono sciocca, ma lo sa il cielo che non posso farci nulla. E ora puoi dirmi se si considera improprio per una governante invitare le amiche a venirla a trovare? Naturalmente non intendo affermarsi come ospite, ma appena per una visita di un'ora o due. Se ciò non è considerato come vero e proprio tradimento al dovere, ti chiedo fervidamente di fare in modo che io possa posare gli occhi sul tuo viso. Mentre te la rivolgo, so di farti una richiesta sciocca, quasi impossibile da realizzare. Eppure, da qui a B ci sono solamente 4 miglia. 21 marzo. Devi scusare la grande brevità di questa risposta alla più che benvenuta tua lettera. Ne è motivo il fatto che il mio tempo è interamente occupato. Mrs. si aspetta da me una gran quantità di lavoro di cucito e non posso fare molto durante il giorno per via dei bambini che richiedono tutta la mia attenzione. Sono perciò costretta a dedicare la sera a queste faccende. Scrivimi spesso lettere lunghissime. Faranno bene a tutte e due. Questo posto è di gran lunga migliore di quello di. Ma Dio sa che ho un bel da fare per mettervi tutto il cuore. Quello che mi dici mi ha alquanto rallegrata. Vorrei essere capace di agire sempre secondo il tuo consiglio. La nostalgia per la mia casa mi rode penosamente. Se i bambini sono superviziati e perciò a volte difficili da tenere in riga. Vieni, vieni a trovarmi. Se è una infrazione all'etichetta non importa, anche se puoi fermarti solamente un'ora, vieni. Non dire mai più che ti abbandono, mia carissima. Non potrei passarmi il lusso di farlo, anche se volessi. Sento che non è nella mia indole procedere in questo squallido mondo senza dare e ricevere simpatia, senza attaccamento a qualcuna, ed è veramente raro poterlo fare. E quando si è trovato qualcuno, è un tesoro troppo grande perché ci si possa permettere di gettarlo via spensieratamente. Miss Bronte aveva occupato il suo nuovo posto da poche settimane, quando le fu data prova della gentilezza e del senso di ospitalità dei suoi datori di lavoro. Mister scrisse a suo padre, invitandolo caldamente a venire una settimana con lei, e Mrs. fu spiacentissima quando una delle amiche di Miss Bronte giunse in carrozza fino alla porta per lasciarvi una lettera, o un pacco che fosse, senza chiedere di entrare. Charlotte ebbe così la prova che tutti i suoi amici potevano venire liberamente a farle visite e che suo padre, se lo avesse voluto, sarebbe stato accolto con piacere. Registrò questa buona disposizione con gratitudine e scrisse all'amica esortandola urgentemente a venirla a trovare, il che e fece. Giugno 1841. Stenterai a credere che non riesca a trovare un quarto d'ora per buttar giù due righe, ma è proprio così. E dopo che la lettera è scritta, deve essere portata alla posta, a 1 miglio di distanza, il che richiede quasi un'ora e occupa una consistente parte della giornata. Mister e Mrs. sono via da una settimana. Ho avuto loro notizie questa mattina. Non fissano la data di ritorno, ma spero che non sia lontana, se no perderò l'opportunità di vedere Anne in queste prossime vacanze. Mi scrivono che è arrivata a casa mercoledì scorso e che le hanno dato solamente 3 settimane di licenza perché la famiglia presso cui si trova ha il progetto di andare a Scarborough subito dopo il suo ritorno. Vorrei vederla per giudicare di persona le sue condizioni di salute. Non oso fidarmi di quanto dicono gli altri, non mi sembrano osservatori sufficientemente minuziosi. Avrei grandissimo piacere che anche tu la veda. Fino a questo momento mi sono intesa molto bene con la servitù e con i bambini, tuttavia il mio è un arido, solitario lavoro. Tu conosci tanto bene quanto me il senso di solitudine che dà la mancanza di una costante compagnia. Poco tempo dopo quella lettera, Mr. e Mrs. tornarono a casa, il che permise a Charlotte di andare a Haworth e verificare le condizioni di salute di Anne, che, come constatò con estrema ansietà, erano lungi dall'essere fiorenti. Ma cosa poteva fare per prendersi cura e rallegrare l'ultima nata? Le apprensioni sul suo conto fecero riaffiorare il progetto di aprire una scuola. Se, grazie a quel mezzo, loro tre avessero potuto vivere insieme, mantenendosi, tutto sarebbe potuto andare meglio. Inoltre sarebbe rimasto loro tempo sufficiente per insistere nel tentare quella carriera letteraria che, a dispetto delle deludenti risposte fino a loro tenute, non aveva cessato di essere la loro ultima meta. Ma la principale spinta di Charlotte in quel momento nasceva dalla convinzione che la salute di Anne era così delicata da richiedere sollecite cure che nessuna all'infuori della sorella maggiore era capace di darle. Infatti, durante quelle vacanze scrive: Haworth, 19 luglio 1841. Ti abbiamo aspettata a lungo e ansiosamente il giovedì in cui avevi promesso di venire. Mi sono addirittura stancata gli occhi sorvegliando la strada dalla finestra, binocolo in mano e a volte aggiungendo gli occhiali sul naso. Tuttavia non intendo biasimarti. E in quanto alla delusione, ebbene, a tutti tocca soffrirne una volta o l'altra nella vita, ma un centinaio di cose che ti volevo dire sono ora dimenticate e non saranno mai dette. In questa casa viene covato un progetto che Emily ed io desideravamo particolarmente discutere con te. Il progetto è ancora al primo stadio, spunta a malapena dal guscio e semmai verrà fuori un bel pulcino debitamente formato, o invece andrà male e morrà prima di pigolare, è uno di quei fatti che sono nebulosamente accennati dagli oracoli che prospettano il futuro. Ora, non ti lasciare sbalordire da tutto questo metaforico mistero. Io parlo in stile delfico, non solo dei progetti, ma anche di quanto avviene quotidianamente. Avvolgo l'informazione in figure retoriche, quali uova, pulcini, eccetera, eccetera. Per venire al punto, papà e la zia confabulano per accessi e soprassalti sul fatto che noi, cioè Emily, Anne ed io, si apra una scuola. Ho spesso detto, tu lo sai, quanto desideravo farlo, ma non potevo vedere da dove il capitale necessario per tentare una simile speculazione si sarebbe potuto trovare. Sapevo con certezza che la zia ha del denaro da parte, ma pensavo che fosse l'ultima persona capace di offrire un prestito per la realizzazione di un progetto quale questo di cui ti parlo. Ed ecco che un prestito lo ha offerto, o meglio, ha lasciato intendere che forse lo offriva purché alcune alunne siano garantite, una posizione adatta venga trovata, eccetera, eccetera. Queste promesse suonano molto sensate, tuttavia inducono a considerazioni che gettano una doccia fredda sul progetto. Non mi aspetto che la zia metta sul tavolo più di 150 sterline da arrischiare nell'impresa. Sarebbe possibile aprire una rispettabile, in nessun modo appariscente, scuola e provvedere in un primo tempo al suo andamento domestico con un capitale di tale entità? Esponi il problema a tua sorella se pensi che vi sappia rispondere, se no, non fare parola, in quanto a contrarre un debito vero e proprio è cosa alla quale nessuna di noi si indurrebbe neanche a pensarci. Non ci importa quanto modesto, quanto umile sarebbe il nostro inizio, purché riposi su un terreno sicuro e abbia salde fondamenta. Pensando a tutte le possibili e impossibili località dove potremmo aprire una scuola, mi è venuta in mente Burlington. Ricordi se là vi era un'altra scuola all'infuori di quella di Miss? Questa è naturalmente un'idea rudimentale. Vi sono 100 ragioni per considerarla impraticabile. Non abbiamo là nessuna relazione, nessuna conoscenza, è lontano da casa nostra, eccetera, eccetera. Tuttavia, ho idea che l'East Riding sia meno saturo del West Riding. Molte indagini e prudenti considerazioni mi saranno necessarie, naturalmente, prima di fare un piano definitivo. Una quindicina di giorni più tardi, vediamo che è stato gettato il seme da cui sarebbe nato un progetto che doveva influenzare il suo futuro. 7 agosto 1841. È sabato sera. Ho messo a letto i bambini e mi metto a rispondere alla tua lettera. Eccomi nuovamente a senza compagnia. Direttrice e governante, poiché Mr. e Mrs. sono in visita a dire il vero, benché io sia molto sola, mentre sono via, questo è di gran lunga il tempo migliore. I ragazzi sono tollerabilmente sotto controllo, i domestici sono molto rispettosi e pieni di attenzioni per me, e l'assenza dei padroni di casa mi solleva dal dovere di sembrare sempre gaia e pronta alla conversazione. Marta, a quanto pare, sta godendo di grandi opportunità e così pure Mary, che sarai sorpresa di sentire, si sta preparando a ritornare da qui a breve tempo sul continente insieme con suo fratello, non per rimanervi, ma per un giro di piacere. Ho ricevuto una lunga lettera da Mary e un pacco contenente una bellissima sciarpa di seta nera e un paio di bei guanti di capretto comprati a Bruxelles. Naturalmente ho avuto piacere del dono, piacere che mi abbiano pensata anche da così lontano e da una delle più splendide capitali d'Europa, eppure mi sembra duro l'accettarlo. Ah, penso che Mary e Marta non abbiano denaro che vada oltre le loro necessità personali. Avrei voluto che mi dessero prova del loro affetto con un regalo meno costoso. Nella lettera, Mary parla dei quadri delle cattedrali che ha visto, pitture di squisita bellezza, chiese tra le più venerabili. Non so come, un nodo mi salì in gola mentre leggevo la sua lettera, una tale veemente repulsione della costrizione e del lavoro monotono, un così forte desiderio di un paio di ali, ali che solo la ricchezza può dare, una sete di vedere, di udire, di imparare, qualcosa di interiore sembrò espandersi fisicamente in me. Mi sentii sollecitata da facoltà non esercitate, poi ogni cosa si sfasciò e disperai. Mia cara, non farei una simile confessione a nessuna all'infuori di te e di preferenza per lettera piuttosto che a viva voce. Questa commozione ribelle e assurda è stata solamente momentanea. L'ho soffocata in 5 minuti. Spero che non insorgerà più, visto che è stata acutamente dolorosa. Circa il progetto cui ti accennai, non ho fatto alcun passo avanti, né probabilmente ne farò per ora. Ma Emily, Anne ed io non lo perdiamo di vista. È la nostra stella polare e la fissiamo nei momenti di sconforto. Mi accorgo che ti sto scrivendo in modo da farti credere che sono infelice. Non è assolutamente così. Anzi, è il contrario. So che il posto che occupo è ottimo per una governante. Quello che mi turba e a volte mi ossessiona è la convinzione di non avere alcuna vocazione naturale per questo lavoro. Se richiedesse solamente la dedizione all'insegnamento, sarebbe senza asperità, addirittura facile. Ma è il vivere in casa altrui, l'estraniarsi dal proprio vero carattere, l'assunzione di un aspetto freddo, rigido, apatico, che è penoso. Non menzionare per ora il nostro progetto di aprire una scuola, un progetto di cui non si prevede la prossima attuazione. È sempre incerto. Scrivimi spesso, mia cara Nell, sai quanto valore do alle tue lettere. La tua cara bambina, visto che ti piace chiamarmi così, Charlotte. Post scriptum. Sono in buona salute. Non ti mettere in testa il contrario, ma ho una gran pena in cuore. Devo alludervi, benché avessi preso la risoluzione di non farlo. Si tratta di Anne. Le tocca sopportare tante cose, più, molte di più di quanto abbia dovuto subire io. Quando il mio pensiero va a lei, la vedo sempre in veste di paziente perseguitata e estranea. Io so quanta nascosta suscettibilità vi sia in lei, quanto i suoi sentimenti possano essere feriti. Vorrei starle vicina per consolarla un po'. È più sola, ancor meno capace di farsi degli amici di quanto lo sia io. Non voglio insistere su questo argomento. Charlotte poteva tollerare molto per sé, ma non sapeva sopportare i dolori altrui, specialmente quelli delle sorelle. E fra le due sorelle, il pensiero della piccola, gentile ultima nata, condannata a soffrire in solitudine pazientemente, le era insopportabile. Bisognava fare qualcosa. Poco importava se il fine desiderato era ancora lontano. Sentiva che tutto il tempo che scorreva via senza avvicinare, per quanto lentamente fosse la meta agognata, era tempo perduto. Avere una scuola voleva dire avere una certa libertà durante la giornata, non subire controlli, eccetto quello esercitato dal senso del dovere. Per le tre sorelle che si amavano con un affetto così appassionato, significava stare sotto uno stesso tetto, pur guadagnandosi da vivere. Sopra ogni altra cosa, per Charlotte, era aver modo di vegliare sulle due creature la cui vita e felicità avevano più valore per lei che non la sua stessa. Ma nessuna trepida impazienza l'avrebbe indotta a compiere un passo imprudente e precipitoso. Continuò ad informarsi in tutti i modi sulle possibilità di successo di una nuova scuola, ma sembrava che dovunque vi fossero più pensionati simili a quello che le sorelle pensavano di aprire di quanti avessero la possibilità di prosperare. Cosa potevano fare? L'unica carta buona consisteva nell'offrire prestazioni di livello superiore, ma quali? Erano ricche di energia, di pensiero, di informazione. Ma quelle non erano qualifiche che si potessero inserire in un progetto scolastico. Di francese sapevano un po', abbastanza da leggerlo, senza difficoltà, ma certo non sufficientemente da poter entrare in concorrenza con insegnanti francesi di nascita o perlomeno professionalmente preparate. Emily e Anne avevano qualche nozione di musica, ma anche in questo caso era più che dubbio che fossero in grado di trasmetterle. Proprio in quel tempo Miss Wooler stava pensando di chiudere la sua scuola a Dewsbury Moor. Si offrì di cederla alle ex alunne, ma una sua sorella ne aveva assunto la direzione attiva fin dal tempo in cui Charlotte vi insegnava e il numero delle alunne era diminuito. Se le Bronte l'avessero rilevata, avrebbero dovuto fare molta fatica per riportare il pensionato al suo antico livello di prosperità. Per farlo non avevano i requisiti necessari, ma Charlotte aveva un'idea sul come ottenerli. Prese la risoluzione di seguire quel filo conduttore e di non abbandonarlo finché non avesse conseguito lo scopo. Con la calma forzata di un ardore represso che getta un bagliore di desiderio su ogni parola della lettera che segue, scrisse alla zia. 29 settembre 1841. Cara zia, non ho più avuto notizie da Miss Wooler da quando le ho scritto che ero disposta ad accettare la sua offerta. Non so immaginare il motivo di questo lungo silenzio, a meno che si pensi a un imprevisto impedimento sorto al momento di concludere l'affare. Nel frattempo, un piano è stato suggerito da Mr. e Mrs., il padre e la madre dei suoi alunni, e da altri, e ora voglio comunicarvelo. Gli amici che mi consigliano dicono che se voglio garantirmi un successo duraturo devo rimandare l'apertura della scuola di altri 6 mesi e nel frattempo riuscire a trascorrere questo tempo in una scuola sul continente. Dicono che le scuole in Inghilterra sono così numerose, la concorrenza è così grande che senza alcun dubbio dovremo affrontare un'ardua battaglia e una quasi sicura sconfitta alla fine se non troveremo il mezzo di imporci con evidente superiorità. Per di più, dicono che forse le 100 sterline che siete stata così buona da offrirci in prestito non saranno necessarie, visto che Miss Wooler ci lascerebbe l'uso dei mobili. Se si vuole che la speculazione riesca, dando così un buon risultato, metà della somma impegnata dovrebbe essere utilizzata nel modo indicato e una riuscita assicurerebbe una più pronta restituzione del capitale, oltre al pagamento degli interessi. Non andrei in Francia, tantomeno a Parigi, ma a Bruxelles, in Belgio. L'importo del viaggio fin là sarebbe al massimo di 5 sterline. La vita vi costa su per giù la metà che qui in Inghilterra e le occasioni di acquisire una buona cultura sono all'altezza, se non superiori, di quelle offerte in qualsiasi altra grande città europea. In 6 mesi potrei acquistare una perfetta familiarità col francese. Potrei fare grandi progressi in italiano e perfino acquistare qualche nozione di tedesco, tutto questo purché la mia salute si mantenga buona. Mary in questo momento soggiorna a Bruxelles in un istituto di primissima categoria. Non penserei di andare al castello di Kökelberg, dove è in pensione lei, perché la retta è molto alta, ma se le scrivessi sarebbe in condizione, con l'aiuto della moglie del cappellano inglese Mrs. Jenkins, di trovarmi un pensionato decente a buon mercato e rispettabile. Avrei l'opportunità di incontrarmi con lei di frequente, mi farebbe conoscere la città e con l'aiuto dei suoi cugini verrei probabilmente in contatto con persone di gran lunga più educate, più colte e atte a farmi progredire di quante abbia mai incontrato fino ad oggi. Questi sono i vantaggi che risulterebbero di gran peso se aprissimo una nostra scuola e se Emily potesse goderne con me, avremmo dei risultati assolutamente impensabili al momento. Dico Emily invece di Anne che potrebbe andare a Bruxelles in un secondo tempo se la nostra scuola attecchisse bene. Mentre scrivo mi sento sicura che vedrete la saggezza di quanto dico, cara zia. Vi è sempre piaciuto fare uso del vostro denaro nel modo più vantaggioso, non amate spenderlo per cose meschine, quando concedete in favore lo fate in gran stile e potete credermi, 50 o 100 sterline così impiegate sarebbero piazzate bene. Naturalmente non conosco altra amica a cui rivolgermi. Nutro l'assoluta convinzione che se questo vantaggio ci sarà concesso, esso risulterà nella nostra felice sistemazione per tutta la vita. Forse papà penserà che il progetto è scriteriato e ambizioso, ma chi mai si è affermato nel mondo senza ambizione? Quando egli partì dall'Irlanda per andare a Cambridge era tanto ambizioso quanto lo sono io ora. Voglio che noi tutte si progredisca. So che abbiamo talento e voglio metterlo a profitto. Mi rivolgo a voi, zia, per trovare aiuto. Penso che non ce lo rifiuterete. So che non dovrete mai pentirvi per colpa mia della vostra bontà. Questa lettera fu scritta dalla casa dove risiedeva in qualità di governante. Passò un po' di tempo prima che giungesse una risposta. Nella canonica di Haworth molto doveva essere discusso tra il padre e la zia e finalmente giunse il consenso. Solamente allora e non prima confidò il piano a un'amica intima. Non era incline a parlare molto di un qualsiasi progetto finché non avesse la certezza di poterlo tradurre in atto. 2 novembre 1841. E adesso mettiamoci pure a bisticciare. Considererò se mi convenga entrare in azione sulla difensiva o con una offensiva. Propendo per la difensiva, eh? Dici, e vedo chiaramente che è proprio così, che sei stata ferita dalla mia apparente mancanza di fiducia. Hai sentito da altri dell'offerta di Miss Fuller prima che te ne parlassi io stessa? Beh, è vero, e non ho mai accennato per lettera ai miei progetti. La mia condotta sembra strana a un'amica cara e vicina, che conosciuta da lungo tempo non è stata mai trovata in difetto. Verissimo, non posso farti le mie scuse per questo comportamento. La parola scuse implica l'ammissione di una colpa, io di essere stata in colpa non lo sento e di fatto non lo sono stata, non ero e non sono ancora certa del mio destino. Al contrario, ero nella più completa incertezza, perplessa fra piani e proposte contraddittorie. Il mio tempo, come ti ho spesso ripetuto, è interamente occupato. Tuttavia, ho dovuto scrivere molte lettere che non potevano assolutamente essere procrastinate. Sapevo che non sarebbe servito a nulla scriverti in quel momento per dirti che vivevo nel dubbio e nell'incertezza, piena di speranze e di paure, fra ansia e desiderio di fare quanto sembrava impossibile. Quando pensavo a te in quel periodo così colmo, era per prendere la ferma risoluzione che ti avrei informata di ogni cosa, quando avessi visto chiaramente tracciata dinanzi a me una strada per raggiungere lo scopo che mi ero prefissa. Se mi fosse possibile, vorrei sempre lavorare in silenzio e nell'oscurità, lasciando che i miei sforzi siano conosciuti dai loro risultati. Miss Fuller, con grande gentilezza e bontà, mi propose di andare a Dewsbury Moor per tentare di riattivare la scuola alla quale sua sorella aveva rinunciato. Mi offrì l'uso delle attrezzature in cambio del vitto e dell'alloggio per sé. A tutta prima accolsi la proposta cordialmente e mi disposi a fare tutto il possibile per condurre la transazione in porto, ma in cuore mi si accese un fuoco che non mi fu possibile estinguere. Bramavo così ardentemente di aumentare la mia cultura, di migliorarmi. In una mia lettera ti lasciai intravedere quel che provavo, te lo lasciai solo intravedere, è vero. Mary gettò olio sul fuoco e con quel modo di esprimersi forte, energico, tutto suo, mi incoraggiò a procedere. Desideravo andare a Bruxelles, ma come riuscirvi? Desideravo che almeno una delle mie sorelle condividesse la stessa opportunità. Fermai la scelta su Emily. Meritava questo premio, lo sapevo. Come potevo conseguire il mio scopo? In uno stato di estrema eccitazione, scrissi a casa una lettera che vinse la battaglia. Invocai l'aiuto della zia, che acconsentì a quanto le chiedevo. Ogni cosa non è ancora completamente stabilita, tuttavia è già abbastanza dire che abbiamo una probabilità di andare e rimanere là per 6 mesi. In ogni modo, Dewsbury Moor è scartato. Forse è una fortuna che sia così, poiché è in una posizione squallida, oscura, inadatta per una scuola. Nel mio cuore penso che non vi sia motivo di rimpiangerlo. Eccoti i miei piani futuri, se quanto spero andrà in porto. Una volta a Bruxelles, se la salute mi aiuterà, sfrutterò al massimo ogni opportunità a mia portata. Quando il termine dei 6 mesi sarà raggiunto, beh, farò quel che potrò. Credimi, benché sia nato in aprile, mese delle nuvole e del sole, io non sono mutevole. Il mio umore è incostante, a volte parlo con veemenza, in altri momenti non dico una parola, ma ho una salda considerazione per te, e se tu acconsentirai a lasciar passare le nubi e l'acquazzone, sta pur certa che c'è sempre il sole, a volte oscurato, ma sempre lì. A Natale lasciò il posto di governante, separandosi dai suoi datori di lavoro in un modo che sembra l'abbia veramente commossa. Fecero veramente troppo conto di me, disse dopo essersi lasciata quella famiglia alle spalle. Non meritavo tanto. Le tre ragazze e Branwell speravano di trovarsi insieme nella casa paterna in quel dicembre. Il figlio, che da 5 mesi era impiegato nella ferrovia che univa Leeds a Manchester, contava su una licenza di 7 giorni. Anne giunse prima di Natale. Nel difficile impiego che ricopriva si era fatta talmente apprezzare che, quando aveva manifestato l'intenzione di licenziarsi, le avevano chiesto insistentemente di non lasciarli. E beh, esitava, in parte a motivo del duro trattamento che nei primi tempi vi aveva ricevuto e in parte perché la sua presenza in casa, durante il soggiorno delle sorelle all'estero, sembrava opportuna se si prendeva in considerazione l'età delle 3 persone che vi sarebbero rimaste sole. Dopo un fitto scambio di lettere col Belgio e un gran parlare in casa, a un certo punto, a motivo delle notizie scoraggianti che giungevano circa le scuole di Bruxelles, fu deciso di mandare Charlotte ed Emily nella Francia settentrionale, in un istituto di Lille, altamente raccomandato da Baptiste Noël ed altri ecclesiastici. Così, alla fine di gennaio, fu stabilito che da lì a 3 settimane le sorelle sarebbero partite, a quella volta, scortate da una signora francese allora in visita a Londra. La retta era di 50 sterline a testa per vitto e alloggio e per l'insegnamento del solo francese. Se si rinunciava a una camera privata, la retta sarebbe stata più modesta. Charlotte scrive: 20 gennaio 1842. Considero un gesto di grande bontà da parte della zia l'aver accettato di pagare una somma extra per garantirci l'uso di una camera personale. Ciò sarà per noi un vero privilegio da molti punti di vista. Il cambiamento da Bruxelles a Lille mi dispiace per molti motivi. Primo fra tutti il fatto che non vedrò Marta. Mary è stata instancabilmente gentile nel procurarmi informazioni. Non si è risparmiata nessuna fatica, praticamente nessuna spesa per ottenerle. Mary vale più dei rubini. Ho di fatto 2 amiche, te e lei, salde e vere nella fedeltà, delle quali ho tanta fede quanta ne ho nella Bibbia. Vi ho importunate tutte e due, te specialmente, ma tu sempre prendi le molle e accumuli carboni ardenti sul mio capo. Ultimamente ho dovuto scrivere alcune lettere a Bruxelles, a Lille e a Londra. Devo cucirmi una quantità di camicie da giorno, camicie da notte, fazzoletti e borse. Inoltre ci sono i vestiti da sistemare. Da quando sono tornata a casa ho aspettato di settimana in settimana di vedere Bronwell, che non è ancora riuscito a venire fin qui. Lo aspettiamo senza fallo per sabato prossimo. In simili frangenti, come mi sarebbe possibile far delle visite? Mi procuri supplizio di tantalo parlandomi di lunghe conversazioni accanto al fuoco, credimi, non ne godremo alcuna da qui a un bel po' di mesi. Vado acquistando un'interessante impronta di vecchiaia sul viso. Quando mi rivedrai, certamente porterò cuffia e occhiali.